Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il nostro nuovo sito radio24.it, in cui troverete tutti i programmi con le puntate che sono più o meno immediatamente scaricabili, sicuramente in giornata per tutte le trasmissioni, segnatamente lo dico per la mia. Via podcast è possibile comunque ascoltare, anche con un nuovo motore di ricerca, un po' tutte le trasmissioni e tutte le puntate della programmazione di Radio 24. Alcuni giorni fa, cari radioascoltatori, ho ricevuto una mail molto strana, una mail che sicuramente avranno ricevuto chissà quante persone, in cui si consigliava, nel caso di auto incidentate o sinistrate, di contattare una mail o di contattare un numero di cellulare, perché queste persone che avrebbero ricevuto la nostra mail o avrebbero ricevuto la nostra telefonata si sarebbero messe in moto per ritirare in giornata direttamente a domicilio la nostra macchina e avrebbero pensato a tutto, al cosiddetto trapasso, tutto a spese di queste persone. Allora, io che sono sempre un po' scettico su queste cose, mi allarmo sempre, ho finto di essere un'altra persona e ho fatto una telefonata che ora possiamo ascoltare. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, mi chiamo Leandro Diamanti. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, ho ricevuto una mail sulla mia casella postale. Sì. Che recita: siamo un'azienda specializzata nell'acquisto e nella vendita di auto incidentate e autosinistrate. Sì. Ecco, volevo capirne qualcosa di più, francamente, perché mi sembra una cosa un po' strana. Vabbè, noi mandiamo qualche email, se magari qualcuno c'ha qualche macchina incidentata, ci richiama e mi contatta. No, no, questo l'ho capito, ma voi come fate a prendere quest'auto? Cioè, vorrei capire che cosa ci guadagno io a darla a voi piuttosto che a darla indietro comprando un'altra macchina o portandola da un rottamaio. Io sono in provincia di Rieti e ce ne sono. Ma che qui macchina è? È una vecchia Clio. Clio? Sì. Di che anno? È del 98, mi sembra, perché poi è di mia moglie in realtà. Ma è motore fuso, che c'è? No, fa schifo. Semplicemente voglio cambiarla, non c'ha niente. Ma lei la vuole rottamare, che vuole fare? Sì, io voglio darla via, voglio darla via. Ha avuto qualche toccatina, qualche piccolo incidente, voglio darla via. Se posso guadagnarci qualcosa, voglio capire se mi conviene darla a voi o se la porto da un robbivecchio o dal mio concessionario. Ho capito. Allora, noi possiamo, se quale modello è? Il primo tipo o il secondo tipo? Adesso mi fa una domanda da $1,000,000. Non mi ricordo. È del 98, se è del primo tipo o del secondo Ma tipo, non lo so. La macchina cammina? Sì, la macchina cammina. Mia moglie ci è andata. Mia moglie ci è andata a sbattere contro il paraurti, accompagnando mia suocera al lavoro, a quelle toccatine così, è sfregiata la macchina che usiamo per andare così a fare la spesa, ma non è niente di particolare. Io ho un'altra macchina, ho Alfa GT con la quale cammino, insomma. Quelle che possiamo dare, possiamo fare il passaggio, il trasporto paghiamo noi, il passaggio lo passiamo, lo paghiamo noi, è 200 euro. 200 euro per la macchina? Sì, il passaggio e il trasporto. Ho capito, ma vorrei capire una cosa. Ve la venite a prendere voi a Rieti o ve la devo portare io dove? No, veniamo noi. Noi veniamo, facciamo i passaggi di proprietà, paghiamo noi, veniamo con i carattezzi e ce la portiamo. Scusi, ma a chi lo devo fare il passaggio di proprietà io? A chi la devo vendere questa macchina? Alla ditta, a noi. E la ditta si chiama Compro e Vendita? No, siamo noi. Poi quando veniamo da lei, noi abbiamo tutta l'indestazione per indestarla. Ho capito. Ho capito. Quindi 200 euro per una macchina? Sì. Ho capito. Per quel tipo di macchina. Ho capito. Ma scusi, volevo capire una cosa, perché io ci tengo alle regole. Ma una cosa del genere è legale oppure non è legale? Che problema ci sta? Io sono un commerciante, ho la licenza e tutti. Che problema ci sta? Una pubblicità. Ho capito, mi scusi, ma voi come avete fatto ad avere il mio indirizzo di posta elettronica? Questo me lo sono chiesto, perché io abito a Rieti e lavoro in un'azienda privata, ma com'è possibile che voi abbiate avuto il mio indirizzo di posta elettronica? Esatto, non sono io preciso che mando le diciamo le email, ho altre persone che lavorano, quindi per stare a ricavare questa email vuol dire che lei c'ha qualche pubblicità a qualche parte. No, io francamente non ho nessuna pubblicità da nessuna parte, sono un privato, sono una persona, quindi non ho nessuna, sono un dipendente, si figuri un po' lei. Vabbè, mo non lo so se hanno sbagliato, hanno via email, mo non lo so, il problema qual è? Cioè, mo non lo so. Comunque è arrivato l'email, lei l'ha letto, se è interessato su questa cosa, se no comunque non vi arriva più, non c'è più problema. Ho capito, va bene, quindi non devo portarla io a Napoli perché sento che lei è napoletano. Ma lei mi sta facendo qualche dichiarazione, cioè non lo so, io vi ho spiegato come funziona a noi. Certo. Se lei è interessata, e noi acquistiamo, se lei è interessata ci richiama e noi ci mettiamo d'accordo. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Anche a lei. Buongiorno. Bene, allora avete sentito, io ovviamente volutamente non ho fatto né il nome né il cognome, tantomeno ci penso a pubblicizzare questa mail o questo cellulare, però avete sentito la certezza di legalità che c'è in questa operazione. Allora io non voglio mettere i carri davanti ai buoi, a me la cosa un po' puzza, ma siccome non sono un esperto, sono un giornalista, quindi il re degli ignoranti, per capirne di più ho sentito e ho chiamato chi? Un amico, una persona che è veramente esperta di motori ed è Roberto Rasia, che è giornalista, appunto esperto di motori, e direttore di turismoinauto.com, dove potete trovare una marea di informazioni utili. Quindi vi ripeto il sito www.turismoinauto.com. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te Roberto, a tutti gli ascoltatori, ciao. Allora, caro Roberto, tu hai ascoltato insieme a noi questa telefonata, così come hai ricevuto la mail che ti ho mandato, perché è la stessa appunto che era arrivata in redazione, non potevo non girartela. Tu che sei un esperto di queste cose, allora che cosa ne pensi? Dunque, intanto penso che dobbiamo tenere non due occhi aperti, ma tre, no? Anche il terzo occhio di fronte al computer, che spesso è lo strumento attraverso cui oggi truffe evidenti di questo tipo vengono veicolate. La prudenza, la conferma delle società a cui inviamo dati, per esempio anche il famoso phishing bancario, insomma, a noi sembrano un po' scontati perché siamo buoni utilizzatori dei mezzi tecnologici. Ricordiamoci però che ci sono persone che usano meno le email, usano meno il web e potrebbero cascare in un tranello di questo tipo. Allora, do per scontato, come senti, il fatto che sia abbastanza una truffa, perché non ci si propone a livello societario in queste maniere, non siamo riusciti a capire dove abbiano preso il tuo indirizzo di posta, e questo è il primo segnale. E secondo, penso, confermamelo se sbaglio, però che non rispondano al telefono sempre questi signori, per cui questo è già un altro sì, sintomo. Abbiamo avuto difficoltà noi stessi, abbiamo provato più volte, anche perché quando si chiama da un telefono che poi di cui non appare il numero magari si ha maggiore difficoltà, però hai sentito tu stesso effettivamente, come dire, la diffidenza ad un certo punto dell'interlocutore. La diffidenza, a un certo punto lui credeva che tu fossi quasi un inquisitore, no? Perché esatto, un investigatore, esatto. come infatti eri sotto pentite spoglie, esatto. Giustamente, per fare un servizio a noi, agli ascoltatori. Però un altro consiglio è quello di non fidarsi mai solo di un cellulare e di una mail con un dominio che non sia appartenente a una società. Questo è un altro piccolo, ma credo utile consiglio. Per quanto riguarda l'aspetto automobilistico, vedi, loro cercano di beccare quelle persone che hanno problemi con un'auto incidentata derivante da un trauma, un incidente, un dramma magari che è avvenuto sulle strade, e piuttosto di liberarsi di un veicolo di quel tipo si accontenterebbero di 200, 300, 400 euro. Impossibile che poi il trapasso venga fatto in mezzo alla strada sotto casa del proprietario, per ecco, esempio, infatti, del veicolo. Ecco, anche questa qui è una cosa molto curiosa, no? Cioè, mentre si prende un caffè, cosa si fa? Si passa l'auto da una persona all'altra, è abbastanza ridicolo, no? Ultimamente sono state molto e anche velocizzate, un passaggio di proprietà non può essere realizzato in mezzo alla strada da una persona che si presenta come una società ma di cui non abbiamo alcuna evidenza. Ecco, alcuni consigli credo utili da sottolineare ai nostri ascoltatori. Assolutamente. Grande prudenza. Assolutamente, io ringrazio Roberto Rasia per il suo intervento, ricordiamo www.turismoinauto.com per avere queste e altre informazioni, ovviamente su tutto quello che è il mondo dell'auto e del turismo adesso connesso. Grazie in regia a Pietro Lacorte, in studio a Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi auguro una buona giornata.